Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno e buon Natale. Buon Natale a quanti ci ascoltano e buon Natale a Enzo Bianchi. Buon Natale a tutti. Sapremo scoprire, Signore, che tu sei presente fra noi. Buon Natale a Enzo Bianchi, siamo qui nella comunità di Bose, registriamo questo programma qualche giorno prima di Natale, non abbiamo voluto disturbare il priore e la sua comunità proprio in questo giorno, un giorno particolarmente importante. Buon Natale, ce lo siamo detti tante volte in questi giorni, lo abbiamo ricambiato. Cosa vuol dire Buon Natale, Enzo Bianchi? Ma è certamente un augurio, una parola che ha molti significati a secondo di chi lo dice e a quelli a cui è rivolto. Per i cristiani Buon Natale significa essenzialmente una buona festa nel ricordo della nascita di Gesù, un Dio che si è fatto uomo, un Dio che ha voluto essere narrato dagli uomini da Gesù Cristo, un uomo come noi. La sua vita umana ci parla di Dio. Il mondo è davvero cambiato. Prima Dio bisognava cercarlo nel cielo, bisognava cercarlo altrove. Dopo Gesù Cristo Dio lo si cerca negli uomini. Allora possiamo dire Buon Natale è un po' il desiderio di conoscere attraverso l'uomo la grandezza di Dio. Esattamente, direi che è proprio così, perché l'unicum del cristianesimo tra le religioni è che non ci parla di Dio in quanto Dio. Quello che sappiamo di Dio ce l'ha narrato un uomo con la sua vita umanissima. Ciò che c'era straordinario in Gesù non era una qualità religiosa, era la sua qualità umana, umanissima. Allora Natale diventa anche una festa degli uomini. Io la chiamo la festa dell'umanizzazione. I cristiani la chiamano teologicamente festa dell'incarnazione, ma ha lo stesso significato, festa dell'umanizzazione. Noi celebrando Natale diciamo che vogliamo essere più uomini, che vogliamo diventare sempre più uomini, acquisire una qualità di vita umana migliore. E allora questo riguarda tutti, non solo i cristiani. Ecco, qualche parola su Enzo Bianchi. Enzo Bianchi è priore della comunità del monastero di Bose, monastero fondato da lui alla fine degli anni 60, che poi è cresciuto, adesso occupa 80 confratelli e sorge appunto dai dintorni di Biella, provincia di Biella, nelle campagne, nelle colline, anzi delle Prealpi, vicino alla morena glaciale che scende poi dalla Val d'Aosta. Un luogo incantato e incantevole, ma è un luogo certamente che mette in relazione con la natura, e come mette in relazione con la natura mette in relazione anche con gli altri uomini, quindi è un luogo che aiuta a conoscere ed apprezzare l'uomo. Quale sarà la vostra giornata di Natale? Ma è una giornata veramente un po' differente da tutte le altre dell'anno. Prima di tutto perché Natale è forse l'unico giorno dell'anno in cui siamo solo noi, in cui non abbiamo ospiti, è l'unico giorno dell'anno. Molti si meraviglieranno, Natale, festa dell'ospitalità, proprio loro non ospitano. Ma noi ospitiamo tutto l'anno, sempre. E Natale lo vogliamo vivere con molta semplicità e concentrati con la nostra comunità quotidiana. È l'unica occasione, ad esempio, nell'anno che noi possiamo mangiare tutti insieme, tutti 80, perché normalmente mangiando con gli ospiti siamo dispersi, 4 o 5 per tavola con gli ospiti. Natale mangiamo tutti insieme. È una giornata semplice, a mezzanotte c'è la messa, in cui vengono ancora gli ospiti che poi partono. Alla fine della messa c'è una bicchierata con un po' di moscato e qualche dolce con scambio degli auguri. Poi la notte per il sonno, al mattino ci alziamo e facciamo la preghiera del mattino, una lode per questa grande festa, e siamo solo noi. Nessuno ci vede. Quindi grazie per ospitarci in questa giornata di Natale, siamo vicini a voi virtualmente appunto anche in questa preghiera. Lei nel suo libro, uno dei tanti libri di Enzo Bianchi, Il pane di ieri, molto conosciuto, è ancora tra i libri più venduti, proprio parlando del Natale, un libro che racconta un po' la sua storia, anche la sua infanzia, i suoi ricordi, la sua vita nel Monferrato da studente prima e poi che la sua famiglia. Ecco, parla del il Natale è per l'uomo. Il Natale è per l'uomo in che senso? Ma perché non è una festa in cui noi facciamo qualcosa per Dio, ma è una festa in cui ci ricorda la nostra umanità. Guardare un bambino è ricordare ciò che noi siamo nella nostra fragilità e debolezza. Siamo venuti al mondo disarmati, messi nelle mani degli altri, i genitori che ci hanno accolto. Siamo stati fatti venire al mondo, che non è solo il parto, ma ci vogliono anni per far venire al mondo delle persone. Ecco, noi in un bambino che chiamiamo anche Dio, Gesù, noi vediamo la nostra verità più profonda, la nostra fragilità, la nostra debolezza e tuttavia la nostra grandezza. La vita che vince la morte, la vita che si rinnova, la vita che in un bambino è piena di speranza, la vita che dice che questo mondo ha delle forze in sé per cui può andare avanti, rinnovarsi, essere sempre qualcosa che dà a tutti la possibilità di gioia. Il Natale è davvero la festa, se vogliamo, mi si capisca, meno cristiana dell'anno. Non è come Pasqua in cui celebriamo un mistero cristiano, però è la festa di tutti. Ecco una voce dal cielo, irrompe a metà della notte, sorge la stella d'Oriente, brilla nel buio del mondo. Ecco, lei parla appunto del Natale in maniera molto aperta. Il Natale si è trasformato molto dagli anni della nostra giovinezza, possiamo dirlo, e dagli anni appunto di una civiltà più contadina è diventato un Natale più consumistico, ma lei non demonizza questo consumismo? No, perché comunque anche all'interno del consumismo c'è questa logica del dono, che è qualcosa di molto umano. Noi a Natale ci scambiamo i doni. Se vengono, certo, si possono fare i doni anche per comprare l'amore. L'uomo in tutte le epoche resta tale e io posso subissare l'altro di dono per farmi amare, ma questa è una forma di prostituzione. Però in ogni caso, se io faccio un dono all'altro senza pretendere la reciprocità, senza attendermi che il valore eventuale è pari al dono che io faccio, questo è un capolavoro di umanità, questo mi apre dei rapporti infiniti, questo mi apre la possibilità di nuovi itinerari, mi fa conoscere la gratuità in cui il donatore è ben più grande del destinatario. Ora, quando uno si esercita a capire queste cose, si umanizza e trova senso alla vita. Se uno non impara a dare, regalare, donare, e non impara ad accettare i doni, perché ci sono persone che non vogliono accettare i doni, tanto sono autistiche, egoiste, chiuse su se stesse, ma là dove c'è il dono questi equilibri li sbarazza, li capovolge. Noi siamo chiamati alla comunicazione, alla comunione, allo scambio, alla relazione, è la vita, è la vita. Ecco, proprio in un altro libro ancora di questi ultimi giorni, Ama il prossimo tuo, è un libro scritto non insieme, sono due saggi, sì. Uno suo e uno di Massimo Cacciari, lei parla proprio dell'amore, della relazione, è come un mistero, l'amore è come un mistero ed è qualcosa che sentiamo come un mistero, eppure sappiamo tutti che cos'è l'amore, perché è un mistero? È un mistero perché quando ci accade noi non sappiamo neanche perché accade. Ognuno di noi pensi al giorno in cui sei innamorato, non ha saputo il perché. C'è stato un incanto, c'è stato un momento in cui la bellezza era più forte dell'utilità, in cui le ragioni dell'amore erano più forti delle ragioni che abbiamo ciascuno di noi nella vita. Poi sì, questo amore ha dovuto essere razionalizzato, assunto ed è diventato storia. Ma nella storia l'amore si mostra di nuovo un mistero. Non vive di reciprocità, vive di gratuità costantemente rinnovate l'uno all'altro. Vive di perdono. Due coniugi, se non si perdonano qualche volta, possono continuare a vivere insieme. E poi a un certo punto l'amore ci porta alla novità del figlio, del terzo, che arriva inatteso, comunque altro, diverso da noi, è un'altra avventura. A volte penso, essendo io anziano, all'amore tra anziani che sono restati là dove è possibile, che si esprime in grande tenerezza. Non c'è più il fuoco, non c'è più la passione, non c'è più il falò dell'amore. C'è tanta tenerezza l'un con l'altro e quindi, tanto volersi bene semplice. L'amore può cambiare, ma resta al fondo una grande relazione tra le persone, una voglia di donare, una capacità di accettare questi doni. Quindi il suo augurio di Buon Natale? È che tutti pensino un momento alla profondità del loro amore, lo riconoscano, perché noi abbiamo molto più amore di quel che crediamo di avere. Grazie per intanto a Enzo Bianchi di questa prima riflessione. Incontri. Bentornati al nostro incontro. Abbiamo parlato nella prima parte con il priore del monastero di Bose, Enzo Bianchi, ci ha fatto gli auguri di Natale e adesso facciamo gli auguri di Natale ad Antonella. Grazie. Buongiorno e buon Natale. Antonella fa parte della comunità di Bose, del monastero di Bose, posto idilliaco. Da quanto tempo è qua, Antonella? Da quasi 18 anni. 18 anni. Come mai ha deciso di venire a Bose? I percorsi umani sono sempre di ricerca imprevedibili, per cui così nella mia fase di ricerca sono arrivata poi a concluderla qui. Quindi Bose è un monastero sia maschile sia femminile. Sì. Ed è uno dei pochi monasteri di questo tipo. Sì, una comunità mista, uomini e donne che tentano di vivere insieme il Vangelo, oramai da 45 anni circa. La comunità è nata alla fine degli anni 60, nel 68, e attualmente siamo un'ottantina di persone tra fratelli e sorelle. Com'è la vostra giornata, la giornata tipo, la giornata normale? La nostra giornata è molto semplice, inizia presto al mattino ma finisce anche presto la sera, nel senso che solitamente abbiamo un primo momento di preghiera comunitaria alle 6 del mattino, che è preceduto da un momento di preghiera personale, dopodiché con la lezione divina, dopo la preghiera personale abbiamo un'altra ora a disposizione per meditare e comunque continuare la nostra preghiera personale, e poi inizia il lavoro al mattino dalle 8 fino a mezzogiorno e poi riprende nel pomeriggio dalle 2 alle 5 solitamente. Intercalato da tre momenti di preghiera: mattino alle 6, mezzogiorno e mezza, e poi alla sera alle 18:30 con il vespro. Quindi è uno stile, possiamo dire, benedettino, avete un po' copiato dai benedettini. Di fatto non abbiamo inventato nulla, nel senso che la nostra comunità si ispira alla tradizione monastica occidentale, quindi benedetto da una parte e orientale con Basilio dall'altra, quindi prende le sue radici, attingono a questa tradizione, e sono solo alcune differenze nate proprio per il tempo cronologico in cui è nata la comunità. Quindi avete una vostra regola che seguite, che vi date, avete anche altre comunità, mi sembra. Abbiamo delle piccole fraternità che non sono autonome ma appartengono ancora alla comunità, e sono dei piccoli nuclei. Attualmente c'è un nucleo ad Ostuni, 5 fratelli, un nucleo ad Assisi e 2 fratelli che vivono a Gerusalemme. Quindi le vostre comunità sono comunità innanzitutto di preghiera, non fate opere, per così dire, missionarie? No, la vita monastica prevede una semplicità di vita, di quotidianità, con un lavoro che ci mantiene naturalmente, e questo lavoro è di 8 ore al giorno, proprio per avere questa capacità di poter concretamente mantenere la comunità dal punto di vista economico. Comunque anche il lavoro è tutto all'interno della comunità. Sì. Che tipi di lavoro fate? Artigianali, sono piccoli laboratori artigianali, oltre alla casa editrice che oramai è conosciuta un po' dappertutto, che sono le edizioni Kikayon. Poi abbiamo dei piccoli laboratori artigianali, icone dipinte a mano, la ceramica, un piccolo laboratorio per la trasformazione della frutta, quindi per le confetture. Poi c'è la cireria, una tisaneria, un laboratorio del legno, E poi abbiamo l'orto che ci dà la possibilità di avere frutta e verdura per tutto l'anno, sia per noi che per gli ospiti. E poi appunto avete degli ospiti, ospiti che possono fermarsi da mezz'ora a un anno? Solitamente l'ospitalità appunto o è giornaliera oppure anche una settimana circa. Ci sono delle settimane che sono, soprattutto in estate, che hanno dei corsi biblici, ma durante l'anno invece l'ospitalità è aperta a chiunque volesse venire per fare dei giorni di silenzio, ritiro, solitudine o confronto. Però deve seguire anche i vostri momenti, le vostre preghiere. Sì, noi chiediamo una ricerca personale, ci sono anche non credenti che frequentano il monastero, per cui non è obbligatorio partecipare alla nostra preghiera. Cerchiamo però di incontrare le persone, quindi che ci sia un incontro umano oltre che un incontro dal punto di vista della fede, della ricerca della propria fede. Quindi per ogni informazione su di voi sul sito monasterodibose.it ci sono tutte le istruzioni anche per arrivare, non sì. È molto semplice ma ci si riesce. Sì, sì. Grazie mille e buon Natale. Anche a lei. E allora buon Natale, dopo l'incontro con Antonella abbiamo qui Luciano, un altro esponente, partecipante della comunità di Bose. Come si vive a Bose? A Bose si vive molto semplicemente un'esperienza di vita cristiana e umana all'interno di quella specificità antichissima che è la vita monastica, quindi con molta semplicità noi tentiamo di vivere una vita di lavoro, una vita di condivisione, una vita di preghiera fatta insieme, accogliendo molte persone che vengono da fuori e quindi non sentendoci né migliori né in posizione particolare rispetto agli altri. È una forma di vita cristiana e umana particolare, questo sì, ma direi tutto sommato coerente e complementare alle altre forme che conosciamo, più quotidiane. C'è un priore che ha un po' la responsabilità della comunità e poi tutti sullo stesso piano? Sì, c'è un priore che fa l'unità della comunità, c'è una struttura sinodale con consiglio dei professi, un consiglio ristretto che aiuta il formarsi di decisioni che siano il più possibile condivise e comunitarie, ma di fatto siamo tutti su uno stesso livello. È il capitolo della comunità che ha valore decisionale. Comunque nella tradizione monastica la struttura di autorità potremmo dire che è quella di una piramide rovesciata. Al vertice la comunità, a metà la regola e infine quell'uno che è l'abate, il priore, ma che è servo della regola e della comunità. Quindi è una funzione di utilità comunitaria che serve per regolare, regolamentare, per mettere in pratica la regola, in fondo anche per spingere poi ogni persona a partecipare. Sì, potremmo dire che è una forma di traduzione della paternità di Dio e dunque una funzione, quella dell'abate, che deve servire lo sviluppo umano, spirituale di ciascuna persona e servire l'unità e la comunione della comunità, una paternità in questo senso. Come è arrivato lei a Bose? Qual è il suo itinerario, diciamo, un po' personale, un po' di fede, un po' di incontri, un po' magari anche di casualità? Già da ragazzo avevo un grosso desiderio di radicalità cristiana, leggevo la Bibbia fin da ragazzino, presto mi sono occupato, ho studiato l'ebraico, ho cercato di ritrovare le radici ebraiche della fede, con degli amici ho frequentato degli ambienti in cui una volta, ricordo a un convegno a Padova nel 79, incontrai e conobbi Enzo Bianchi, da lì nacque una conoscenza e il desiderio di venire a vedere questo posto. Non appena lo vidi, il desiderio di radicalità cristiana che avevo mi si, come dire, risorse in me dopo tempi, diciamo, di appannamento, perché vedevo qui quello che era il mio desiderio, una vita di comunità con il primato della parola di Dio, uomini e donne senza discriminazioni e interconfessionale, con cattolici e appartenenti ad altre confessioni cristiane. Ecco, questo all'interno della Chiesa può forse suscitare, può aver suscitato anche qualche perplessità, se non qualche polemica, questa forma diversa dalla tradizione, proprio questa comunità mista. Sì, agli inizi la comunità ha conosciuto dei tempi un po' più difficili, ma vanno anche capiti. Eravamo alla fine degli anni 60, il concilio era ancora cosa molto recente. Chiaro che parlare di ecumenismo risultava un tantino, soprattutto che più che parlarne, viverlo risultava particolarmente difficile. Per cui ci sono state sì delle difficoltà, ma direi che hanno fatto bene alla comunità che si è irrobustita, assumendo e sottostando anche alle limitazioni che le furono poste a suo tempo. Quindi siamo arrivati adesso con una solidità ben fondata, solida, mi sembra che abbia anche un'immagine pubblica molto positiva, e allora concludiamo con gli auguri di Buon Natale, il suo augurio di Buon Natale. Auguro a tutti di poter vivere una vita sempre più essenziale, che riscopra sempre di più l'essenzialità e che riscopra sempre di più l'umano, una vita sempre più umanizzata. Questo è il mio augurio, dicendo a tutti Buon Natale. Ecco, grazie Luciano, grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Pietro Lacorte in regia e a Guido Scotti in redazione, e ancora Buon Natale a tutti.